vivo come non mai, lo sai, deciso a cambiare il giorno in cui l'anima mi te scenderà, tu sola e via la tua metà. Da piccolo il tempo è lento, poi dai 20-50 penserai, tornare indietro fin da lei, cambiar finale. Non c'è più la storia, non c'è tempo, non c'è sesso, solo il vuoto, il sentimento, l'ho perso, giusto senso, il sogno immenso, la macchina del tempo e l'utopia che ho per te. Avanti nel tempo vedo te, felice ma non più insieme a me, ma è tutta una banalità, a un'altra poi ti lascerà. Piangendo chiederai perché la vita abbia proprio scelto te, ma ciò che fai e ciò che vuoi cambia finale. Te l'avevo detto, l'uomo perfetto è in difetto, il rispetto lo porto in camera da letto, chiudi il cassetto, il sogno aspetta, la macchina del tempo che lo sbaglio cambierà.